Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questa è la storia di un'amicizia. Un'amicizia tra due giovani donne che non esiste più. Da molto tempo non esiste più. Da circa 25 anni. Una delle due giovani donne sono io. Una volta un ascoltatore mi ha scritto dicendomi che ogni tanto aveva la sensazione che noi scegliessimo i temi delle puntate in base a quello che accadeva nel mondo. Cioè, come se il raccontare storie che facciamo tutti i giorni, più a voi siete qui, avesse un qualche legame con quello che succede fuori, con l'attualità, con la politica. Non so dove se lo fosse sognato, ma non è così. E tantomeno la puntata di oggi è così. Quindi non cercateci seconde letture, non cercateci sottotesti. Noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni alle 16 in diretta. Voi siete qui, @radio24.it, se volete partecipare con la vostra storia. Un episodio che racconti qualcosa di voi, della vostra vita, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Se invece volete riascoltarvi tutte le storie di questo programma, scaricatevi il podcast dal sito di Radio 24, gli ultimi 5 scaricabili, tutti gli altri invece ascoltabili in streaming. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, sono le 16 e 9 minuti, quasi 10 di un bel mercoledì 27 di novembre. Splende sempre un sole incredibile qui a Milano rispetto a quanto pare stia succedendo nel resto d'Italia. Incredibile perché non è così facile che il sole sia così forte e il cielo sia così limpido su questa città. Oggi raccontiamo una storia che, come avete sentito, parla di un'amicizia, sì, ma parla di una sorta di filosofia di vita finale di questa storia che però è applicabile a un sacco di altre pratiche della vita. Ed è un bel, sano e pragmatico chi se ne frega. 349-238-6666, altrimenti il profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24, il profilo Twitter del programma, che è Voi siete qui R24, il mio profilo Twitter invece, che è semplicemente Matteo Caccia. La volta in cui, proprio in maniera totalmente liberatoria, dopo esservene preoccupate, dopo aver sofferto, dopo aver patito, a un certo punto vi siete accorti e dai, ma chi se ne frega. 349-238-6666, vale per lavori, vale per storie d'amore, vale per amicizia, vale per qualsiasi cosa alla fine del quale voi, insomma, avete suggellato il momento con un bel chi se ne frega. 349-238-6666. Questa, state a sentirvela, è la storia di Cinzia. Questa è la storia di un'amicizia. Un'amicizia tra due giovani donne che non esiste più. Da molto tempo non esiste più. Da circa 25 anni. Una delle due giovani donne di allora sono io, Cinzia. E in questi 25 lunghi anni non ho pensato molto a questa amicizia. Alcune volte però mi è tornata in mente. In quelle rare occasioni in cui mi è tornata in mente, non ho provato il minimo senso di colpa. Cosa abbastanza strana per me, che rimugino sempre molto sulle cose, sui fatti, e la maggior parte delle volte riesco sempre a trovare una giustificazione per gli altri e un errore per me. Ma forse avrei dovuto, e forse anche ora dovrei, provare almeno un minimo, lontanissimo e vago senso di colpa. Perché sì, è vero, lo ammetto. Quella volta sono stata veramente una stronza. Ma non riesco a pentirmene. Quasi certamente non ne sono orgogliosa e non l'ho raccontato ad amici e conoscenti, ma sinceramente credo che lo rifarei. Giovanna l'avevo conosciuta al liceo. Non eravamo diventate amiche dal primo anno. Credo sia successo il secondo o il terzo. Prima di allora ci eravamo abbastanza ignorate. Lei era sempre sulle sue, sempre un po' in disparte. Poi non ricordo esattamente in quale occasione abbiamo iniziato a passare del tempo insieme, anche fuori da scuola. Dopo un po' ci sentivamo e ci vedevamo ogni giorno. Abitavamo vicine, ci frequentavamo al pomeriggio e spesso ci vedevamo, quasi sempre, anche la sera, quando uscivamo insieme ad altri amici. Non era molto semplice essere amica di Giovanna. Giovanna era una brava ragazza, con molte qualità, ma con due difetti abbastanza complicati da gestire nell'ambito di un'amicizia. Era lunatica e molto, molto, molto insicura. Non le mancava nulla in tutti i sensi. Era una bella ragazza, sapeva essere simpatica quando voleva, era molto intelligente. A scuola andava molto bene, economicamente la sua famiglia non aveva nessun problema. Anzi, negli ultimi tempi i suoi genitori erano diventati, per qualche ragione che io ovviamente non conoscevo, ancora più ricchi. Di una ricchezza ostentata. Ostentata al punto che ti rendevi conto che quello che volevano leggere nei tuoi occhi era invidia, pura e semplice invidia. Questo per Giovanna si era concretizzato in vestiti ancora più belli e nel realizzarsi all'istante di ogni suo desiderio materiale. Poteva avere quello che voleva. Al contrario dei suoi, però, Giovanna a volte si vergognava e si imbarazzava di fronte ai nostri normalissimi amici per questo suo benessere economico. A volte, invece, questa agiatezza le tornava utile nei confronti degli altri. Io proprio in quel periodo ero sua amica. Su di me la sua ricchezza e i suoi vestiti, sinceramente, non provocavano alcuna invidia. O forse sì. Ma you stood by the harbor. Her hand set in a wave. The light now more evening than day. Now I see the beauty I failed to see when she was me. Life undressed me of her, strap by strap, like a silk dress she fell to my feet. She brought me flowers, said she liked my work. Avevamo deciso, con un'altra nostra amica, Sonia, di passare 15 giorni in Liguria, presso l'albergo della famiglia di Paola, altra amica comune dell'università. Sì, perché nel frattempo avevamo finito il liceo, io e Giovanna, e ci eravamo iscritte alla stessa facoltà, stessa università. Non appena arrivate all'albergo, tipico albergo ligure di media categoria, bello fuori e un po' vecchiotto dentro, la vidi cambiare colore e faccia. Il posto non le piaceva, l'albergo non le piaceva, la stanza non ne parliamo. Da quel giorno in poi, per farla breve, non le andò più bene niente. Per condire il tutto arrivò anche il brutto tempo. L'unico raggio di sole si palesò una sera, quando la nostra amica, proprietaria dell'albergo, ci presentò alcuni suoi amici. Fra loro c'era Filippo. Sembrava fosse stato creato apposta e unicamente per Giovanna. Le piaceva quel ragazzo, e come se le piaceva. Si notò subito un luccichio nei suoi occhi, ma non ci disse nulla. Non ci furono i soliti commenti un po' sciocchi. E comunque, anche a me piaceva. Io a fine serata buttai là un "però, carino Filippo", e ottenni da Giovanna semplicemente un blando "sì, abbastanza". Per un qualche inspiegabile motivo, inspiegabile secondo Giovanna ovviamente, sono sicura che lo pensasse così, iniziò fra me e Filippo un gioco di sguardi, di battute, di sorrisi, niente di che. Ma a Giovanna questo non piaceva. Da quel momento in poi iniziò a tentare di convincere me e l'altra amica a tornare a casa e mi propose di passare il resto delle vacanze nella sua bellissima villa sul lago. E accettai. Così, dopo 4 o 5 giorni, io e Giovanna ci trasferimmo nella sua casa al lago. Mi sarei dovuta fermare come suo ospite una decina di giorni. Il posto era veramente bello. I genitori di Giovanna e la sorella erano molto gentili, molto ospitali. La casa, che occupava l'intero primo piano di una villa dell'Ottocento con giardino e piscina, aveva una vista mozzafiato sul lago. Al mattino sveglia senza alcuna fretta, bagno in piscina, colazione e il resto della giornata da trascorrere in modo ozioso e rilassante. Per i primi giorni tutto sembrò andare per il meglio, fino a quando non arrivò la prima telefonata di Filippo. Da quel momento niente fu più come prima. I giorni che seguirono furono i più strani della nostra amicizia. Io e Giovanna non ci parlavamo più. Avremmo avuto tanto da dirci, ma in realtà le parole che non uscivano dalle nostre bocche aleggiavano nell'aria calda. Alla telefonata di Filippo era seguito un invito a cena da parte di Giovanna. Ovviamente non una cena in territorio neutrale, ma a casa sua, nella splendida villa con tanto di famiglia e domestici tirati a lucido. Durante la cena mi ricordo che non parlai più di tanto, osservavo quelle persone che mi ospitavano, osservavo Giovanna che era tornata allegra, osservavo Filippo che era ancora uno sconosciuto. Tra di noi ci fu uno scambio di parole quasi dette sottovoce e dopo pochi giorni decisi di tornare a casa. Ricevetti una chiamata da Filippo, mi chiese di uscire con lui e non ci misi molto a rispondere. Mi piaceva Filippo, ma ci sarei uscita anche se non mi fosse piaciuto, perché io non riuscivo a capire per quale motivo Giovanna avesse deciso che Filippo doveva uscire con lei e non con me. Alla prima uscita ne seguirono altre, fino a quando decisi di dirlo a Giovanna. Non feci nemmeno in tempo a finirla, la frase. Lei aveva già interrotto la comunicazione. La richiamai per parlarle, mi rispose la sorella e anche lei mi chiuse il telefono in faccia. Fu il mio unico tentativo di contattarla. Non la cercai più e lei non cercò più me. Non la vidi più, neanche in università. Sparita. Da quel momento l'amicizia tra me e Giovanna non esisteva più, svanita nel nulla. Come se non ci fossimo mai incontrate, mai cercate, mai consolate. I musi e le risate non erano mai esistiti. I nostri lunghi pomeriggi insieme, boh, forse immaginati. Che strana sensazione. Ecco, e fu allora che pensai, e chi se ne frega? Chi se ne frega di un'amicizia che negli anni io e Giovanna pensavamo fosse amicizia, ma che nel giro di pochi giorni aveva finalmente preso le sembianze di quello che era veramente. Un rapporto fatto di competizione e di reciproca invidia e gelosia. They sing of lost electric love. They sing about hope. They sing of giving up. And then they sing about joy. They sing of pain. They sing about cold metallic blame. From my cocoon of angel wings. From my cocoon I'm gonna let you in. From my cocoon of angel wings. From my cocoon I'm gonna let you in. They sing of waiting endlessly. They sing about lost eternity. And then they sing. Buongiorno, sono Claire. Buongiorno, mi scusi, io chiamo da Radio 24, dovrei parlare con Costantino della Gherardesca. La ringrazio. Questi jeux temple de bien-être, dovremmo registrare a 37 degrés e la beauté della campagna toscana pour rendre votre séjour inoubliable. Eccomi. Eccoci qua, ma è fantastico. La musichettina, l'hai mai sentita la musichettina? No, non l'ho sentita, c'è della musichettina classica. C'è la musica classica che è una voce che in francese ti dice. No. Quando si registra una telefonata in radio, di solito questo pezzo non lo si fa mai sentire. Cioè, si chiama la persona che si deve chiamare e si dice, guarda, allora se stai un attimo lì, faccio un lancio, ti presento e poi andiamo con la registrazione. Ok, ok, aspetta lì, ok. Invece questa volta, visto che l'ospite è un amico di questa trasmissione ormai quasi, oltre che un amico anche personale, non sono riuscito a non mandarlo questo primo pezzo. Costantino della Gherardesca lo conoscete perché, insomma, perché Costantino della Gherardesca, tra le varie altre cose che ha fatto recentemente, è stato il conduttore di Pechino Express, che era una trasmissione, che è una trasmissione di Rai 2. Oggi, quando volevamo raccontare qualcosa di più riguardo a questo tema, non volevamo parlare solo di ragazze che litigano, nonostante sia arrivato ad alcuni giustamente questo, perché poi le storie raccontano una cosa, poi possono raccontare molte altre. Qualcuno scrive, ma sta deriva alla uomini e donne? Ecco, non è una deriva alle uomini e donne, è semplicemente che abbiamo voglia di raccontare qualcosa che ha a che fare con quell'atto liberatorio che è il chi se ne frega. Costantino della Gherardesca è in questi giorni a fare una cosa che adesso lui vi racconterà, ed è da un certo punto di vista per noi l'emblema del chi se ne frega. Pronto, eccomi qui. Come stai? Io sto bene, relativamente bene. E tra l'altro, ne parlavamo fuori onda, noi in realtà siamo precisissimi con l'argomento della puntata di oggi per quanto ti riguarda, Costantino, giusto? Perché tu mi dicevi, io il mio chi se ne frega ce l'ho ben chiaro, ce l'ho ben preciso in testa. Assolutamente sì, perché vedi, laddove un chi se ne frega, diciamo, meditativo, spirituale, è positivo volendo, no? Perché ti aiuta a procedere, no? Ad andare avanti. A procedere. Il chi se ne frega medico, che ho sempre, diciamo, a cui ho sempre aderito, ha delle conseguenze negative. Tant'è vero che adesso tu mi stai chiamando e io sono in una clinica. Però, per non spaventare i tuoi grandi fan, e anche non solo, e anche semplicemente gli amici magari, non sei in una clinica perché... No, sono in una clinica non per via di malattie serie, ma per via della mia obesità. Perché cosa è successo? Io ho avuto varie ernie del disco. I dottori mi dicevano: tu devi dimagrire, se no poi la schiena è un disastro, finisci male. Io dicevo: chi se ne frega, e infatti adesso l'ernia è tornata fuori, nonostante io mi sia operato, e sono insomma in clinica a dimagrire e a fare fisioterapia. Quindi regime ferreo in questa clinica, ti immagini in una clinica... Tu non puoi capire, Matteo, la sera mangi una vellutata di zucchine, sì, il giorno un pezzettino di pane integrale con dei ceci, e basta. E basta? Ma uno può sopravvivere con sta roba, Costantino? Uno sopravvive, negli ultimi giorni ho perso 3 chili, quindi insomma... E tu, tipo, adesso tu hai fame? Io sto battendo la testa contro il muro dalla fame. Ma alla fine di questi... Tu non puoi capire la fame che ho. Alla fine di questi 10 giorni, quanto passi lì dentro? Passo 10 giorni. E alla fine di sta roba poi tu esci e puoi mangiare quello che vuoi? Ovviamente no. L'idea è che io non dica chi se ne frega una volta. Ah, quindi possiamo sancire, Costa, con questa telefonata, a voi siete qui in diretta, che questo è un po' il tuo addio al chi se ne frega. Questo vorrebbe essere un mio addio al chi se ne frega. Io cercherò di lasciare chi se ne frega nel passato, però ahimè è più forte di me. Il problema, Matteo, è che alla nostra età, quando sì, non hai più 19 anni, certo, non è che puoi socializzare con le persone andando a un rave o in discoteca. Chiaramente. No, va al ristorante, no? Certo, certo. Quindi l'unico modo per socializzare con gli amici che ho è andarci a mangiare insieme, quella è una cosa deleteria. Però è anche vero che a questa età, Costantino, l'ho sentito l'altro giorno dire dal mio comico preferito in assoluto, questo comico americano che si chiama Louis C.K. Certo, esatto, conoscerai. Che lui dice, sai, lui diciamo non è obeso, però ce l'hai presente, è un po' in sovrappeso. E lui dice: questo outfit, questo modo di stare alla mia età, a 45 anni, quindi è un po' più grande di me, te, però a 45 anni è giusto, è sbagliato se hai 16 anni, no? Che è vero, cioè quando si è giovani è più difficile essere in carne rispetto a quando si hanno 40 anni, cioè diciamo calza meglio o calza semplicemente... Però vedi, uno piace anche se è in carne, infatti Louis C.K. è un uomo che ha moltissimo successo con le donne, piace certo, molto, certo. Anch'io non ho avuto problemi in quel senso, il problema è con te stesso, è un problema fisico, e c'è anche il mio nuovo tema preferito, che è l'ambiente obesogenico. Cioè, che cos'è? Noi non siamo grassi perché siamo dei porci che mangiamo troppo, ma perché siamo circondati da un ambiente obesogenico dove ci sono gli ascensori, dove non si cammina. Ah, ok, dove non puoi, dove di fatto si sta troppo comodi sostanzialmente. Sì, è colpa dell'economia se siamo grassi, e non ovviamente mia. Però, Costantino, poi ti saluto perché devo chiudere. Io mi ricordo in uno dei tuoi video, perché insomma tu è da un po' che diciamo racconti, l'hai resa una narrazione, no? Quella della tua sì, forma. Il mio dolore, la storia del mio dolore. La storia del tuo dolore. C'è un episodio di In Gran Forma che, se non conoscete, andate a vedere immediatamente. Cercate In Gran Forma su YouTube e vi si rivelerà dei pezzi magnifici di Costantino Del Gherardesca. C'è un pezzo in cui tu dici: io dimostrerò che attraverso questa mia dieta eccetera eccetera andrò contro il concetto fascista della forza di volontà. Sì, come farai a combattere? Cosa può la forza di volontà di un individuo, cosa può fare contro un'industria alimentare piena di merendine, di pubblicità, di carboidrati? Non lo so. Nulla. Non può fare nulla. Costantino, io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, e direi che ufficialmente sanciamo l'addio di Costantino Della Gherardesca al chi se ne frega riguardo al cibo. Per 10 giorni, finché sono in, diciamo, nello spa. Grazie mille, Costantino, in bocca al lupo. Ciao, buona giornata. Ciao. Lancio un bel chi se ne frega tutte le volte che vedo un vaso di Nutella e lo trasformo in un vaso di Nutella vuoto, Susanna. Amore, amicizia e cibo, i grandi temi del chi se ne frega dell'Occidente contemporaneo. 349-238-6666. Prima di chiudere vi ricordo che venerdì alle 16 siamo in diretta dal forum degli agenti di commercio, che si troverà qui vicino alla radio, alla Fiera di Milano. È aperto, potete venire a vederci, c'è un palchetto e ci siamo io, c'è Oscar Giannino, c'è Giuseppe Cruciani, insomma c'è un sacco di gente. Andate sul sito di Radio 24, vedete tutti i programmi e i conduttori che saranno in diretta da là, potete venire e fare da pubblico, basta compilare un form che trovate andando sul sito di radio24.it. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Scrivete storie, raccontate storie e ascoltatele scaricando il podcast di questa puntata. Grazie ancora a Cinzia, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Franco Rosso, la vacanza con qualcosa in più. Vi ha presentato